Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo musiche dedicate a Steve Lacy. È interessante come, come dire, recentemente, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, anche lei si è entrato nel novero dei grandi che si possono utilizzare anche per farne celebrazioni di qualche tipo, ma devo dire francamente che non avrei mai immaginato che fosse preso come riferimento di compositore. Lei si ha composto molte cose, ovviamente, soprattutto per il quintetto, il sestetto, ma anche poi naturalmente in solo. Questo comunque non ne fa un compositore di temi particolarmente importanti. Sicuramente è stato un grande solista, come riusciva a rivoltare, a ricercare ogni piega delle composizioni di Ellington, di Monk, di Mingus, insomma di tutti i giganti. E questo l'ha fatto praticamente per tutta la sua carriera, anzi l'inizio del suo lavoro è stato dedicato alle musiche di Monk, col quale ha suonato nel 57, prendendo il posto tra l'altro di Coltrane nel suo gruppo. Erano gli esordi, ma poi non ha mai abbandonato questa vena interpretativa, e questo comunque non gli ha mai sottratto nulla all'importanza di un gigante, quello che può essere considerato attualmente uno dei giganti della storia del jazz. Devo dire che non mi ero accorto che anche il resto del mondo si rendesse conto dell'importanza di Lacy. Recentemente quindi ben venga così il fiorire di progetti dedicati a lui. Ad esempio, quest'anno è uscito un disco per la Cuneiform, etichetta piuttosto attenta a quanto accade attualmente nell'ambito internazionale, e un gruppo chiamato Ideal Bread, un quartetto composto da Josh Sinton, soprattutto guidato da John Sinton al baritono e agli arrangiamenti anche, e poi si aggiungono alla tromba Kirk Knufke, poi Adam Hopkins al basso e Thomas Fujiwara alla batteria, quindi una formazione che, come dire, a parte il leader, che devo dire non lo conoscevo più di un tanto, gli altri sicuramente sono musicisti ormai affermati e che hanno una loro come dire, visibilità anche, pur nell'ambito di quello che può essere una musica di nicchia, poi come quella di cui parliamo. Il disco è stato salutato anche in alcuni casi, perlomeno con molta attenzione e con molto favore da parte della critica internazionale. Ha dei lati positivi e degli lati meno positivi. La cosa interessante è, intanto, un disco doppio e interpreta, percorre soprattutto le composizioni fatte dal 71 al 77 da Lacy e incise per l'etichetta Sarava. È stato uno dei periodi interessanti, molto creativi della musica di Steve Lacy. Quindi sono una trentina di composizioni che vengono riviste, quindi brani anche piuttosto brevi, ma è interessante anche la lettura che ne viene data. Ascoltiamo 4 brani consecutivamente. Thank you. Questo era il gruppo Ideal Bread con come leader il sassofono baritono di Josh Sinton. È interessante questa lettura di temi di Lacey, intanto il fatto di averne scelti molti e con uno sviluppo abbastanza breve, piuttosto breve anzi. Ma la cosa interessante secondo me è che questo gruppo riesce a dare una interpretazione originale ai temi di Steve Lacey, cioè proprio al discorso melodico, alla costruzione melodica di Lacey, che spesso le costruzioni melodiche di Lacey erano un pretesto per uno sviluppo e un'introspezione molto più approfondita, specialmente poi in sax solo. Il gruppo che ascoltiamo adesso invece, anche questo, un gruppo costituito in pratica, finora quantomeno, per interpretare le musiche di Lacey. Si tratta dei Whammies, una formazione ibrida, una formazione strana che raccoglie personaggi di primo piano anche dei due continenti, vengono dall'Olanda e dagli Stati Uniti, soprattutto un ponte tra l'Olanda e Chicago, direi. E anche da un punto di vista da un punto di vista geografico, della permanenza di questi musicisti frequentemente anche a Chicago. Il gruppo è The Whammies e ha prodotto tre lavori, tutti dedicati alle musiche di Steve Lacey. Si tratta di The Whammies Play the Music of Steve Lacey, volume 1, volume 2 e attualmente, recentemente, che non ho ancora ascoltato, ma il volume 3. Però diciamo che il metodo di avvicinamento a queste musiche è lo stesso e risente poi anche di quella che è un po' la tradizione chicagoana che si può rifare a Ken Vandermark. Cioè i temi vengono accennati, poi c'è uno sviluppo legato proprio anche alle capacità, alle qualità solistiche dei vari interpreti e con variazioni di tipo ritmico che possono intervenire come diversità, diciamo, dai temi originali. Anche in questo caso tutti i brani sono dedicati a qualcuno, che si va da Sigmund Freud a Marilyn Monroe oppure a Miró. Ecco, quindi proprio in una sorta di forma consolidata. Il risultato artistico, a mio avviso, è decisamente di livello notevole. La formazione, la voglio citare, interessante anche come timbrica. Il gruppo è raccolto da una leadership, da una produzione sostanzialmente di Jorrit Dijkstra. È musicista interessante, questo olandese, un musicista che è intorno alla cinquantina d'anni, è decisamente maturo, ha una produzione alle sue spalle notevolissima, sono molti progetti, sono anche molti progetti proprio ai quali partecipa e che propone. Qui, oltre a lui, altro olandese di spicco è Han Bennick, vecchio leone, che dà anche un sapore al drumming del gruppo che è particolare. Bennick ha un modo di suonare la batteria che richiama una tecnica tradizionale proprio delle radici del jazz, ed è un modo interessante, decisamente molto, molto bello, molto, molto accattivante. E poi un altro personaggio di punta, tra quelli diciamo che attualmente si stanno proponendo come personaggi di primo piano sulla scena internazionale, per quanto riguarda anche una ricerca, un certo tipo d'avanguardia, è Pandelis Karagiorgis, e questo pianista greco trapiantato ormai a Boston da qualche tempo e che si sta proponendo con molte cose interessanti. Ha un pianismo bello, originale, riconoscibile e di grande spessore. Un altro vecchio leone, in questo caso, che la congiunzione con Chicago è evidente, Jeb Bishop al trombone. Poi si aggiunge Nat McBride al contrabbasso e una violinista, Mary Olivier, che quindi riprende un po' anche il sapore del violino che era sempre parte della formazione di Steve Lacy, appunto il violino che era affidato alla moglie di Steve Lacy. Diciamo che in questo caso dà anche un senso timbrico cameristico particolare. E ascoltiamo dal primo lavoro uscito nel 2013, come peraltro anche il secondo. Comunque uscirono praticamente a pochi mesi uno dall'altro, all'inizio dell'anno il primo volume, questo Play Steve Lacy, Play the Music of Steve Lacy. Ascoltiamo un paio di questi brani, Born as Usual, perché sono poi comunque tutti riconoscibili, sono i brani più ripetuti poi anche dallo stesso Lacy nei vari concerti per tutta la sua carriera. Mm-hmm. Thank you. Ecco, questi erano gli ultimi due brani che abbiamo ascoltato, e questa lettura particolare che danno gli Wammies alle musiche di Steve Lacy. E, appunto, l'interpretazione, intanto, sono riconoscibili, ci si può ricordare anche ascoltando dei temi di Lacy, ma diventa completamente diversa la timbrica e quindi anche la costruzione negli arrangiamenti, che sono, come dire, che danno un sapore decisamente diverso, soprattutto per merito di Ann Bennick e poi anche del contrabbasso di Nat McBride. E, quindi un gruppo molto interessante, decisamente da seguire anche con attenzione. Ascoltiamo adesso un paio di composizioni sempre di Steve Lacy, queste registrate nel 2013, quindi l'anno scorso, e sono prese dal secondo volume delle musiche dedicate appunto a Lacy. La formazione è identica, la stessa, quindi, e questo peraltro dà anche un senso di continuità, è una sorta di workshop dove anche la riscrittura dei brani di Steve Lacy viene curata particolarmente, viene elaborata in modo più stabile, più definito. Ascoltiamo queste altre due composizioni prese dal vasto repertorio delle musiche di Steve Lacy. Thank you. Questi erano i Wamis, una formazione di musicisti che dedicano le interpretazioni alle musiche di Steve Lacy. Quindi oggi abbiamo ascoltato tutte le musiche di Steve Lacy con musicisti che hanno recuperato il valore delle composizioni di Lacy. Ricordo questa formazione, Jorrit Dijkstra alla sax contralto, che è anche il leader, praticamente l'ideatore di questo progetto. Poi Pandelis Karayorgis al pianoforte, Jeb Bishop al trombone, Mary Olivier alla violino e alla viola, Nat McBride alla basso e Anne Bennick alla batteria. E quindi un gruppo notevole di grande impatto anche espressivo. E direi che la trasmissione non poteva finire che con un brano di Steve Lacy, almeno, visto che qualcuno sta reinterpretando le musiche sue, si può anche ascoltare una sua interpretazione di Monk, un classico naturalmente. E nell'85 è uscito un disco, uno dei tanti peraltro, di Lacy, che dedica a Monk tutte le interpretazioni dei brani più conosciuti di Monk. Il disco era della Soul Note e il brano che ascoltiamo adesso è Misterioso, uno dei classici, e appunto è bello, è magico risentire quale evocazione riesce a dare, soprattutto quale spazio, quale spessore riesce a dare ai silenzi che utilizza per far brillare la sua sonorità nel sax soprano. Ascoltiamo questo Misterioso. Thank you. Questo era uno dei temi più conosciuti di Thelonious Monk, misterioso, in una splendida interpretazione in solo di Steve Lacy, una registrazione dell'85 presa da Only Monk, un disco uscito per la Soul Note. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, un'intera puntata dedicata alle musiche di Steve Lacy e alle reinterpretazioni delle musiche di Steve Lacy. E vi ricordo che l'intera trasmissione e le informazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti e al prossimo. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.